Benvenuti, buonasera. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Benvenuti, buonasera, effetto notte alle 21 e un minuto in questo momento. Un saluto da Anna Migliorati, come sempre il riepilogo, il commento a questa giornata e allora cominciamo con i titoli di oggi. DJ Fabo è morto in Svizzera, ha premuto un pulsante per il suicidio assistito, Cappato domani tornerà per autodenunciarsi. In Italia in Parlamento attende la legge sul testamento biologico, la discussione potrebbe aprirsi lunedì prossimo. Trump apre ad uno storico aumento delle spese militari americane. Una volta si diceva che l'America non perde mai, ora non vinciamo mai, dice. Per trovare i fondi, tagli drastici anche agli aiuti ai paesi esteri. Le liti degli italiani col fisco valgono 32 miliardi e il governo ora apre alla rottamazione. Tocca a Bersani dopo le stoccate di Speranza e Renzi. La scissione ha fatto tutto l'ex segretario, così vince la destra. E nel centrodestra Berlusconi lancia Zaia, ma lui declina l'invito. Il candidato c'è, è Salvini. Oscar delle gaffe, dopo la busta sbagliata anche l'omaggio ad una costumista scomparsa, ma l'immagine di una produttrice che è viva e sta benissimo. E allora queste le notizie di oggi, cominciamo a raccontarvele e cominciamo parlando della vicenda di DJ Fabo. Oggi l'eutanasia in Svizzera, il giorno del dolore ma anche della discussione e delle polemiche politiche e non solo. Allora prima la cronaca, poi il dibattito. È nella clinica Dignitas di Fork, ad una decina di chilometri da Zurigo, che Fabiano Antoniani, nome d'arte DJ Fabo, è stato accolto per morire. Fabo è morto alle 11.40, ha scelto di andarsene rispettando le regole di un paese che non è il suo, ha commentato Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni, che lo ha accompagnato e che domani andrà ad autodenunciarsi. Fabiano, 39 anni, è diventato cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale avvenuto nel 2014. Non prendetemi per scemo, ma devo chiedervi un favore, mettete sempre le cinture, ha detto ai tre amici che lo hanno affiancato negli ultimi istanti di vita. In questi tre anni aveva fatto diversi appelli alle istituzioni per avere il diritto di essere liberato da una tortura insopportabile e infinita, come lui stesso aveva definito la sua condizione. Appelli rimasti inascoltati fino alla scelta di farsi accompagnare in Svizzera dai familiari, dagli amici e dalla fidanzata Valeria. Prima di morire, mordendo lui stesso il pulsante che gli ha messo in circolo il farmaco letale, ha avuto anche la forza di scherzare. Se non riesco a premerlo, vorrà dire che tornerò a casa con dello yogurt, visto che qui è molto buono. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è chi punta il dito contro un Parlamento inerte, chi al contrario parla di omicidio consenziente, chi chiede di non strumentalizzare. La morte del DJ Fabo riaccende le polemiche sul tema del fine vita ancora non regolamentato in Italia. Il 6 marzo dovrebbe approdare in aula il DDL sul testamento biologico, le cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento più volte rinviato e modificato. Un testo appoggiato da PD, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana. Una vergogna l'ennesimo rinvio di questo provvedimento, dice il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni. Mi vergogno di essere un cittadino di questo paese e un parlamentare di questo paese. Contrari, Area Popolare, gran parte del centrodestra. Lo Stato non può dare la morte, dice Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area Popolare. Non abbiamo diritto di anticipare la morte, afferma l'UDC Binetti. La vicenda di DJ Fabo che va a morire in Svizzera non sarebbe cambiato in nessun caso se noi avessimo approvato la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Cauto anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Bruno Netta, il Parlamento non deve scappare ma stoppa le forzature. Il medico non può diventare un mero esecutore testamentario. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Continueremo a parlarne anche con i nostri ospiti questa sera più avanti. Nel frattempo c'è già chi ci manda i suoi messaggi. Ci scrive Andrea da Udine, da cattolico dicono l'eutanasia, ma lo dico da sano, da malati bisogna provare. 349-238-6666, come sempre i vostri sms e anche via WhatsApp. Ci sarà spazio anche per le vostre opinioni. Migranti che arrivano sulle coste italiane sempre più numerosi, l'intelligence ha riacceso oggi i riflettori sui rischi legati al terrorismo. Rischio di possibili derive criminogene islamico-radicali in Italia. A segnalarlo è la relazione annuale dell'intelligence al Parlamento. Per i 007 italiani questa possibilità può essere il risultato dell'effetto combinato di due fattori. Un'ondata migratoria incessante in un breve lasso temporale, fenomeno che mette sotto stress le comunità straniere già presenti, e il conseguente risentimento tra alcuni immigrati frustrati da aspettative tradite e dalle condizioni di disagio patite. Secondo la relazione, gli arrivi via mare hanno assunto una connotazione sempre più strutturale. strutturale, con la Libia assurta a primo hub di partenze verso la penisola. 181.000 arrivi lo scorso anno, 153.000 nel 2015. Altri fattori complicano le cose: il maggior rilievo di una componente islamista più radicale e aggressiva, che potrebbe condizionare e intimidire la componente moderata, che è maggioritaria. Infine, l'affollamento delle strutture di accoglienza, che rallenta inevitabilmente le procedure di esame e accresce la frustrazione. Più nello specifico dell'allarme terrorismo, la relazione cita ripetute segnalazioni di minaccia sul possibile transito di estremisti in area europea attraverso la rotta libica, anche se al momento non si ha la certezza che questo rientri in una strategia strutturata dell'ISIS. In settimana la Commissione europea varerà nuove raccomandazioni in tema di immigrazione, tra queste la detenzione dei migranti destinati ai rimpatri. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non ci può essere una politica europea a discapito di un altro paese. L'Italia e la Grecia hanno bisogno di più aiuto, ha detto intanto il ministro degli esteri tedesco in una conferenza stampa. Oggi era a Roma la Farnesina con Angelino Alfano. Non è possibile, ha aggiunto, che ci siano un hotspot italiano e uno greco e che un altro paese si rifiuti e lasci il peso sugli altri. Ma sentivamo del rapporto degli 007, ha parlato anche il premier Gentiloni. Il messaggio è semplicissimo. Più sicurezza non vuol dire meno libertà. I cittadini italiani possono essere certi non della mancanza di minacce, perché ignorare le minacce alla nostra sicurezza sarebbe un'illusione, ma possono essere certi del fatto che la qualità del lavoro di chi queste minacce lavora per conoscere, per contrastare, per prevenire, è una qualità molto alta. E quindi, così come non dobbiamo ignorare queste minacce, non dobbiamo certo agitarle per suscitare paure ingiustificate. E più sicurezza sarà con ogni probabilità anche la parola d'ordine del primo discorso sullo Stato dell'Unione domani del neopresidente americano Donald Trump. Trump che già oggi ne ha anticipato uno dei punti più attesi. I have to say, when I was young in high school and college, everybody used to say, we never lost a war. We never lost a war, you remember. And now, we never win a war. Trump dice: una volta l'America non perdeva una guerra, ora non ne vince una. Il primo budget del presidente degli Stati Uniti sarà per la sicurezza pubblica, dedicato a tenere lontani i terroristi, ha detto. E mentre il Pentagono ha consegnato il piano anti-ISIS, la Casa Bianca ha annunciato che punta ad aumentare le spese per la difesa di 54 miliardi di dollari attraverso un taglio alle spese di altre agenzie e dipartimenti, e ci sarà anche una forte riduzione dei fondi per i paesi esteri. America, dove in queste ore si discute dell'Oscar, ormai l'Oscar delle gaffe, perché si arricchisce di nuovi particolari. Quello che è successo: PricewaterhouseCoopers, che si occupa del conteggio dei voti agli Oscar, ha aperto un'indagine sull'errore verificatosi al momento della lettura del vincitore nella categoria come miglior film. Lo sapete, a causa di una busta sbagliata l'Oscar è stato assegnato a La La Land, ma era per Moonlight. I produttori di La La Land avevano anche iniziato il discorso, sono stati stoppati. Insomma, sicuramente una serata imbarazzante, ma non c'è solo questo, perché c'è stato anche un altro clamoroso errore. Si è appreso nel segmento dedicato alla memoria degli artisti scomparsa, l'immagine di una persona viva è apparsa sotto il nome della costumista Janet Patterson, che invece sta benissimo. Ne parleremo più avanti. Torniamo invece all'Italia e alla politica. Non parliamo di PD ma di centrodestra, perché torna a parlare Berlusconi in TV. Si riaccende il dibattito sulla leadership del centrodestra. Il centrodestra e il litigio sul candidato premier. Silvio Berlusconi interviene su Canale Italia e lancia la candidatura del presidente del Veneto Luca Zaia per guidare la coalizione. Direi che il centrodestra dovrà al suo interno, se Berlusconi non potrà tornare in campo, trovare qualcuno, dico Zaia, dico qualcun altro che possa emergere e che possa convincere tutti. Uno sgarbo verso Matteo Salvini, a difenderlo interviene subito lo stesso Zaia, il candidato della Lega è lui. E quindi per me questa è una manfrina, per quel che mi riguarda la militante della Lega, noi un candidato ce l'abbiamo già, è Matteo Salvini. Nessuno metterà zizzania tra noi, dice Salvini, che boccia anche un'altra delle proposte di Berlusconi, quella di una doppia moneta, una interna, l'altra, l'euro, per esportazioni e importazioni. Berlusconi parla di un esperimento di 70 anni fa, nel frattempo sono successe tante cose. Quindi l'Italia, per tornare ad essere un paese che produce e che lavora, ha bisogno di controllare la moneta, l'economia, i confini e le banche. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto nel centro-sinistra veleni che non mancano, si scissione regia di D'Alema, ha detto ieri Renzi, ebbene oggi ribatte Bersani. PD, attrazione renziana, non è in condizione di organizzare un grande campo di centro-sinistra e che senza un grande campo di centro-sinistra vario, plurale, largo, vince la destra adesso in questo paese. Gli italiani e il fisco liti per 32 miliardi di euro. Il governo sta valutando la rottamazione delle liti arretrate con il fisco. Ad annunciarlo è stato il vice ministro all'economia Luigi Casero all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. Un macigno di 50.000 liti arretrate con il fisco pesa sulla Cassazione, denuncia il presidente della Suprema Corte Giovanni Canzio. Le cause fiscali sono a volte di scarsissimo valore, spiega, e per evitare la deriva di una Cassazione civile che diventi solo tributaria serve dunque un intervento. L'idea del governo, spiega Casero, è quella della rottamazione delle liti sulla falsariga della rottamazione delle cartelle esattoriali, una misura da applicare al contenzioso pendente in tutti i gradi di giudizio. Per l'arretrato della Cassazione, inoltre, si sta anche valutando l'istituzione di una sezione tributaria bis. A fine 2016 le liti pendenti complessive tra italiani e fisco sono più di 450.000, mentre lo scorso anno gli italiani hanno litigato con il fisco per 32 miliardi, in leggero calo rispetto ai 34 del 2015. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sono poco meno di 500 gli embrioni un tempo custoditi nella clinica di Severino Antinori in attesa di essere restituiti a future mamme e papà, cioè quelle coppie che si erano rivolte alla struttura ora chiusa per avere un figlio. Coppie che nel corso dell'inchiesta in cui il ginecologo è stato accusato di aver rapinato 8 ovuli a un'infermiera spagnola si sono viste sequestrate il materiale biologico congelato. Ora, dopo la decisione della procura, dovrebbero rientrare in possesso di mamme e papà, che però a questo punto attendono da tempo. Ci spostiamo a Napoli. Gli interventi di bonifica a Bagnoli, così come realizzati, si ritiene abbiano compromesso la futura fruibilità di quei luoghi, perlomeno di quelli a destinazione d'uso residenziale. Così le conclusioni delle oltre 200 pagine di una perizia disposta dal Tribunale di Napoli e il processo per la bonifica dell'area di Bagnoli, in particolare dell'ex Italsider. E sempre a Napoli restiamo, dove sono proseguiti oggi gli interrogatori dei destinatari delle ordinanze di custodia, gli arresti domiciliari eseguite venerdì. L'inchiesta è quella sull'assenteismo all'ospedale Loreto Mare. Un sistema di rilevamento delle presenze attraverso le impronte digitali, previa intesa con l'autorità garante della privacy, è una delle misure già adottate per l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno che, dopo il caso dei furbetti del cartellino del Loreto Mare di Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, vorrebbe estendere anche ad altri ospedali. Per questo ha dato mandato agli uffici regionali competenti di verificare soluzioni per controllare i possibili fenomeni di assenteismo. Mentre il Codacons lancia un'azione risarcitoria collettiva per il caso degli assenteisti al Loreto Mare, gli indagati sfilano davanti al GIP e i magistrati ascoltano anche persone informate dei fatti. Nell'inchiesta della Procura di Napoli, che conta al momento 94 indagati tra medici, infermieri, operatori sanitari e amministrativi, 55, lo ricordiamo, sono agli arresti domiciliari e 50 di questi hanno l'obbligo di andare al lavoro. Interrogati, in molti hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto protestano gli aderenti al Movimento Infermieri Campani e Professioni Sanitarie. Chiedono il licenziamento degli indagati. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Allora, il calcio si gioca in questi minuti. Fiorentina-Torino si gioca da 15 minuti. Il punteggio ad ora 1-0. Per la Fiorentina sul Torino. Vi terremo aggiornati. Nel frattempo stanno già arrivando i vostri messaggi. Non ho capito se una persona è in grado di potersi uccidere con le proprie mani, lo può fare, se invece vuole morire ed è costretto in un letto senza potersi muovere, si apre un dibattito, dice Giacomo da Parma. Una grande tristezza per una scelta innaturale, dice Lina da Roma. Il dibattito c'è. Allora, una pausa, sentiamo cosa succede sulle strade e poi ripartiamo da questo, che sicuramente è l'argomento del giorno. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie di oggi: DJ Fabo è morto in Svizzera, ha premuto un pulsante per il suicidio assistito. Cappato tornerà domani per autodenunciarsi. In Italia in Parlamento attende la legge sul testamento biologico, discussione che potrebbe aprirsi lunedì prossimo. Trump apre ad uno storico aumento delle spese militari americane per trovare i fondi, tagli drastici anche agli aiuti ai paesi esteri. Rapporto 007, allarme terrorismo, Gentiloni, più sicurezza non vuol dire meno libertà. L'Oscar delle GAF, non solo la busta sbagliata, ma anche l'omaggio ad una costumista scomparsa, ma l'immagine di una che è viva e sta benissimo. E allora, queste le notizie di oggi, ma sicuramente il tema che ha fatto discutere e riflettere è quello della morte in Svizzera di DJ Fabo. Allora, io saluto Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera a voi e grazie. Marco Cappato è in viaggio, immagino, dopo questa lunga giornata. Dopo questa lunga giornata, anche molto impegnativa, Marco è ancora in Svizzera, rientrerà per domani qui in Italia. E andrà, ha detto, ad autodenunciarsi, è vero, lo conferma? Sì, lo confermo. Avete già deciso dove e come? Ancora no, domani quando arriverà in Italia prenderemo le opportune decisioni in modo che possa rendere noto alle forze dell'ordine l'aiuto che ha fornito a Fabiano su richiesta di Fabo. Ecco, perché in Italia non è lecito, quindi anche solo l'averlo accompagnato costituisce un reato. Potrebbe costituire reato. In assenza di una legge che legalizzi l'eutanasia, il suicidio assistito, in questo momento è bene andare a delimitare ogni margine di quanto è stato fatto. Fabiano, per non coinvolgere nessuno della sua famiglia e i suoi amici, ha chiesto a Marco di portarlo in Svizzera, perché se avesse chiesto di procedere in Italia con il suicidio assistito o con qualsiasi forma di eutanasia, chi l'avrebbe aiutato sarebbe stato implicato comunque in una serie di circostanze che possono implicare una somma di reati che portano fino alla detenzione per 12 anni. Ecco, immagino che lei abbia sentito Cappato, come sono state le ultime ore? Una decisione ferma fino all'ultimo? Sì, una decisione ferma fino all'ultima. Quando Fabiano ha avuto l'ultimo ok, ha deciso di procedere subito. Aveva timore di non riuscire con la bocca a... Ecco, perché ricordiamo che ha dovuto necessario. Lui stesso farlo, perché la legge svizzera questo prevede, cioè un'assistenza, ma l'atto è suo? Sì, l'atto è suo. Scherzava sul fatto che poteva esserci questa possibilità, che con la bocca non riuscisse a spingere il pulsante che avrebbe azionato il farmaco, e poi ringraziava tutti per l'aiuto, invitava i suoi amici ad essere prudenti, ad usare le cinture di sicurezza, e poi ci è riuscito, un ultimo sorriso e saluto a tutti, e Fabiano se n'è andato, ha smesso di soffrire. Un'ultima domanda, perché sono tornati alla mente in queste ore ovviamente i casi Welby e Englaro, ma questa è una storia completamente diversa. Sì, sicuramente diversa dal caso Englaro, dove Luana non poteva esprimere più la sua volontà, era dipendente totalmente da un macchinario in stato di incoscienza. Peppino ha dovuto dimostrare la volontà di Luana. Pier Giorgio Welby invece chiedeva al Presidente della Repubblica una legge che potesse consentirgli di avere una morte senza dolore, di essere staccato dai macchinari e di morire senza dolore. Grazie, allora attendiamo domani anche appunto la decisione di Cappato, che, come dicevamo, tornerà in Italia con la volontà di autodenunciarsi. Vedremo cosa succederà. Grazie intanto per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni, perché, come ci scrive un ascoltatore, non si può suicidarsi, la legge lo dice. Allora, 349-238-6666, sms, whatsapp. Il dibattito, come sempre, è aperto. Comunque la si pensi, il caso c'è, perché l'Italia non ha una legge, un regolamento in tal senso, è da vedere. Il dibattito è aperto, tant'è che ci sono diversi progetti di legge su cui si sta lavorando. Lo hanno fatto altri paesi europei, si sono dati delle regole, tra loro peraltro molto diverse. Giusto per dirvi che il Belgio ha legalizzato l'eutanasia e nel 2014 lo ha fatto anche per i bambini, per i minori, e nel 2016 c'è stato il primo caso. In Olanda l'eutanasia c'è, il suicidio assistito c'è l'eutanasia anche, ma il limite di età è 12 anni. In Lussemburgo anche qui l'eutanasia è legale. Tra i paesi più severi invece nel punire al contrario qualunque forma di assistenza al suicidio c'è l'Irlanda, che ha pene fino a 14 anni per chi aiuta il suicidio di un malato. La Grecia e la Romania hanno pene di 7 anni. In Italia noi una legge per ora non ce l'abbiamo. Tra l'altro dobbiamo distinguere, perché l'eutanasia cosiddetta attiva è la somministrazione di un'iniezione letale da parte del medico su richiesta del paziente, ed è quella che chiede ad esempio l'associazione Luca Coscioni. C'è una legge di iniziativa popolare in Parlamento. Il suicidio assistito, di cui si è avvalso DJ Fabo in Svizzera, prevede che il medico non provochi direttamente la morte. E poi c'è la terza via, che è il testamento biologico. Io saluto Donata Lenzi, deputata del PD, benvenuta, buonasera. Buonasera a voi. Parlavo di terza via perché questa non è né eutanasia né suicidio assistito, è un'altra cosa, però esatto. Anche su questo un disegno di legge c'è, se non sbaglio siamo a 6-7 disegni di legge che avete nei cassetti in Parlamento. No, su questo tema. Siamo partiti da 16 e sul cassetti non ce n'è più. A voglia, 16 vie diverse e quindi ci sono tutte le posizioni in qualche modo rappresentate. Esatto. Il testamento biologico è uno di questi e, se non sbaglio, doveva essere in aula oggi, è stato rinviato al 6 marzo? Sì. Abbiamo finito in commissione, abbiamo radunato i 16 progetti, ne abbiamo fatto uno solo, che si chiama testo unificato, e sulla base di questo aspettiamo il parere delle altre commissioni e poi andiamo in aula. Senta, un nostro ascoltatore al 349-238-6666 ci scrive: l'eutanasia, arriveremo alla fine della legislatura. Rischia anche di essere ottimista. Questa non è una legge sull'eutanasia, è una legge appunto sul testamento biologico e il consenso informato. Che è una cosa diversa, però dicevo, sì. ne parleremo, arriverà dopo il rinvio di oggi, lunedì prossimo, anche Guardi, sull'onda di quello... Sono sicura sulla Camera, spero che si faccia tempo ad andare a Senato, perché quando si vota non lo sappiamo né io né lei. E chissà chi lo sa. Esatto. In ogni caso, forse il dibattito a questo punto si apre. Non per partire da una posizione preconcetta, ma perché appunto una discussione, una riflessione, come abbiamo detto, è stata fatta in altri paesi, a questo punto va fatta. Allora, il DAT, che è la famosa terza via, e che è quella che a questo punto ha riunificato tutte le altre così ipotesi. Che cos'è esattamente il DAT? Detto più semplicemente, il testamento biologico, sbaglio? No, non sbaglia, nel linguaggio quotidiano è più semplice dire così. Allora, la legge prevede il consenso della persona a qualsiasi trattamento sanitario, ma soprattutto prevede che può rifiutare... Questo disegno di legge, Sì, e può interrompere le cure, se è capace di intendere di volere. Se non è capace di intendere di volere... può stilare per quell'evenienza una dichiarazione anticipata di trattamento in cui indica un fiduciario che lo rappresenti, faccia valere quelle che sono le sue opzioni e esprima il suo orientamento, che può andare dal non fatemi niente, non rianimatemi perché ho già 80 anni e ho vissuto a lungo, all'invece con me provatele tutte, anche portatemi all'estero, perché non è che ci sono solo quelli che desiderano mettere fine alla sofferenza, ci sono anche quelli che vogliono provare ogni strada possibile, però ecco, non sei più in te e quindi devi riuscire a avere individuato chi ti rappresenta. Allora, le posizioni dei nostri ascoltatori sono ovviamente diversissime, come è naturale su questi temi. Cioè chi si scrive, eutanasia, se non è lecito spegnere una vita assurda perché è lecito allungarla in modo estenuante. Come si permettono di decidere sulla nostra vita? E qualcun altro che ci dice: non mi sento di arrogarmi il diritto di dire come si debba comportare con la propria vita, ognuno decida per sé. Il concetto è un po' questo. Io oggi sto bene e dico, se dovesse succedermi qualcosa, arrivate fino a questo punto con me, tradotto. Esatto, esatto, è così. Vale anche, nel nostro paese è necessario chiarire che la tua volontà di paziente vale anche quando sei capace di intendere di volere. E il malato di SLA che in Veneto non più tardi di 20 giorni fa ha deciso di sospendere le terapie e fare solo una sedazione profonda fino alla morte, era in sé, la sua testa funzionava, ha potuto scegliere, però è finito su tutti i giornali perché è sembrato un'eccezione. Noi abbiamo bisogno di chiarire che in questo paese hai diritto di scegliere sia quando sei capace di intendere il volere, sia lasciando una dichiarazione per il momento in cui non lo sei più. E che riguarda se stessi, non qualcun altro, perché qualcuno qui ci scrive: avete voglia di ammazzare la gente. No, si tratta di decidere di se stessi. Perché quel caso in Veneto è potuto avvenire in Italia e DJ Fab ha dovuto andare in Svizzera? Perché nel suo caso non siamo di fronte a una patologia progressiva che ti porta alla morte, in cui tu rifiuti le cure, ma se ho capito bene, perché non l'ho visto di persona, quindi mi affido a quello che ho letto sui giornali, era una condizione stabile, sostanzialmente di disabilità. E quindi stabile. Non sarebbe arrivato alla morte sospendendo nessun tipo di cura? No, anzi probabilmente sarebbe stato peggio. Come spesso accade, questi provvedimenti, questo tipo di temi sono trasversali. Avete trovato appoggi in Parlamento? Come si schierano le varie forze politiche? Ma le premetto che questa trasversalità attraversa anche le forze politiche. E quindi, per esempio, l'NCD, che è stata durissima contro, ha fatto anche per un periodo ostruzionismo. Cicchito oggi ha preso le distanze, ha detto che invece lui è favorevole, quindi è una trasversalità che ci taglia in tutti quanti, però noi abbiamo lavorato in un buon clima e direi che il PD e il Movimento 5 Stelle e SL hanno tenuto tutti con grande unità e anche con grande equilibrio. Ecco, sentivamo SEL, PD, Movimento 5 Stelle, NCD, proprio perché spesso questi temi sono trasversali. Ma vi aspettate che arrivi ad un voto? O siamo ancora alla fase del sì, lo appoggio, ma se resta nel cassetto è meglio? No, noi andiamo in aula e avremo il voto. Non so se ci sarà ostruzionismo, questo non sono in grado di dirglielo. Che ostruzionismo vorrebbe dire fare, che so, 2000 emendamenti, perché lei capisce che un'aula di 630 persone votare e discutere 2000 emendamenti è una cosa da ostruzionismo, per l'appunto. Azzardato dire che lunedì prossimo potremmo essere qui a discutere non di un singolo caso, ma dell'Italia che si pone la questione? Beh, è una speranza abbastanza concreta, dipende in larga parte dalla Boldrini e insomma penso che la Presidente abbia il cuore il tema. Grazie. Allora, Donata Lenzi, deputata PD, sentivamo relatrice del disegno di legge sul testamento biologico che a questo punto potrebbe la prossima settimana arrivare in aula. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona serata. Questo non significa che il tema non continuerà ad essere dibattuto. Sicuramente in queste ore, come dicevamo, le posizioni sono davvero le più diverse. Vi aggiorno intanto anche sulla partita in corso, si gioca Fiorentina-Torino, siamo 2-0 per la Fiorentina. Per noi una piccola pausa, torniamo subito dopo, vi rassicuro chi ci sta scrivendo, Roberta Giordano sta benissimo, domani sera sarà qui con voi. Nel frattempo però continuiamo e tra pochissimo parleremo di calcio, di stadio della Roma, c'è ancora molto da dire. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. DJ Fab è morto in Svizzera, ha premuto un pulsante per il suicidio assistito. Cappato domani tornerà per autodenunciarsi. In Italia in Parlamento attende la legge sul testamento biologico. La discussione potrebbe aprirsi lunedì prossimo alla Camera. Trump apre ad uno storico aumento delle spese militari americane. Una volta si diceva che l'America non perde mai, ora non vinciamo mai, dice. Per trovare i fondi, tagli drastici anche agli aiuti ai paesi esteri. Tocca a Bersani dopo le stoccate di Speranza e Renzi. La scissione ha fatto tutto l'ex segretario, così vince la destra. E nel centrodestra Berlusconi lancia Zaia, ma lui declina l'invito. Il candidato c'è è Salvini. 500 embrioni a caccia di mamma e papà sono quelli sequestrati nell'inchiesta Antinori e messi sotto sequestro. Ora il provvedimento è decaduto e non si sa che fine faranno. L'Oscar delle gaffe dopo la busta sbagliata, anche l'omaggio ad una costumista scomparsa, ma l'immagine è di una viva e che sta benissimo. Allora, innanzitutto grazie anche per aver atteso così tanto. Vi annunciamo che questa amministrazione ha raggiunto un accordo con la Roma. Dai Mauro! Allora, non c'è stato un nuovo accordo per lo stadio della Roma, ma ci siamo lasciati venerdì così e siamo a lunedì, siamo già ai blocchi di partenza. E tra l'altro vi dico che il titolo della Roma in borsa ha staccato tutti oggi, ha guadagnato il 7,8%, ha fatto bene ovviamente l'accordo sullo stadio. Siamo già pronti perché gli uffici del Campidoglio sono già al lavoro sulla delibera sul nuovo progetto dello stadio della Roma Tor di Valle. Il 3 marzo, quindi ci siamo, è già in programma la riunione della conferenza dei servizi aperta dalla regione. Il primo step verso l'ok al progetto di Torre di Valle. Le opposizioni in Campidoglio chiedono un consiglio comunale straordinario. Virginia Raggi punta a tempi che per i tempi italiani sarebbero veramente record. Si farà, non si farà, ci sono i termini al di là dell'annuncio, perché si arrivi veramente in brevissimo tempo alla posa della prima pietra e allo stadio nel 2020. Allora, Andrea Santoro è capogruppo del PD al nono municipio di Roma, di cui è stato presidente nella scorsa consigliatura. Benvenuto, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Diciamo che ora c'è invece un grillino, quindi parliamo della stessa compagine della neosindaca, ormai della sindaca, insomma, Virginia Raggi, e quindi almeno da voi dovrebbe avere gioco facile, politicamente parlando. Sicuramente ci dovrebbe essere una corsia preferenziale, ecco, questo sicuramente per loro. Allora, tempi così veloci sono possibili, secondo lei? Tempi così veloci è un po' complicato, perché va rifatto completamente il progetto che per adesso è stato annunciato a parole dalla sindaca, con un taglio di cubature importante, questo assolutamente sì, e sembra oggettivamente una vittoria della sindaca Raggi, ma mi sembra tanto una vittoria di Pirro, o come si dice a Roma, una sola per i cittadini, perché quello che è successo venerdì notte è stato esattamente questo, cioè realizzare un impianto sportivo, un centro commerciale senza le opere pubbliche invece che allora ci arriviamo, ci arriviamo. Intanto c'è stata l'esultanza dei tifosi, il titolo in borsa, tutti festeggiano. A questo punto bisogna andare sui piani concreti. Lei sta a Tor di Valle. Sì, come ci sto io ci stanno anche altre due consigliere grilline che infatti hanno votato contro venerdì, quindi come dire, non è soltanto. Allora, perché da Tor di Valle, stando a Tor di Valle, il progetto non vi piace? Perché per arrivare in quell'area servono delle infrastrutture, serve il. Come ci si arriva oggi? Poniamo oggi che lo stadio ci sia già e che le infrastrutture siano queste. Come si arriva? Si arriva o con i mezzi privati su due strade che erano due mulattiere. Quindi in auto. Esatto, oppure con un treno, un trenino che è stato classificato come uno dei peggiori in Europa. E la differenza con il nuovo stadio di Tor di Valle dovrà essere proprio questa, cioè potenziare con la metropolitana, potenziare con questo trenino che si chiama Roma Lido, collegare lo stadio della Roma con l'autostrada Roma Fiumicino, quella che porta all'aeroporto, tutte opere che a parole della sindaca e della società che andrà a realizzare l'opera sono state o cancellate o, cosa peggiore, sono state posticipate. Cioè, cioè prima facciamo lo stadio e poi vediamo come ci arriviamo. Sì, come succedeva negli anni 60, prima si facevano i palazzi e poi ovviamente non arrivavano le opere pubbliche. Ma se lo posticipiamo, chi paga? Beh, pagano i cittadini nei fatti, perché si realizza lo stadio, poi forse vengono realizzate delle opere pubbliche. Occhio che la Raggi in una sua dichiarazione ha detto: quelle opere che mancano dovrà essere il governo e la Regione Lazio a finanziarle, e così è semplice amministrare, nel senso che io faccio fare lo stadio e poi qualcun altro pubblico, quindi soldi dei cittadini, devono fare le opere pubbliche a servizio dello stadio. Cioè voi avete paura di trovarvi senza le torri, con una cubatura dimezzata, ma un mega centro commerciale, lo stadio, e poi tutto bloccato per il tifoso che ci deve venire. Sì, il problema di tutta questa vicenda è che ovviamente lo stadio della Roma è una partita, ecco, è proprio una partita emotiva. Giustamente il titolo in borsa vola, i tifosi sono contenti, la città sembra galvanizzata, diciamo, da questa opera, però poi c'è la realtà delle cose, cioè arrivarci allo stadio non deve essere un incubo per andare a vedere una partita o per i cittadini che sono residenti in quella zona. Se no, i due consiglieri grillini... Vi siete fatti due conti di quanto potrebbero costare le infrastrutture che a questo punto sarebbero a carico, par di capire, della Regione e del Comune di Roma, ammesso che i soldi ci siano? Ecco, diciamo, la premessa è quella, ammesso che i soldi ci siano. Sono circa 250 milioni di euro, il numero su tutti, nel vecchio 250 progetto, milioni di euro per fare le infrastrutture. Per fare le infrastrutture, cioè significava anche, ad esempio, comprare 18 treni nuovi per la ferrovia che c'è in questo momento lì, e invece il nuovo progetto ne prevede due, da 2 a 18 significa tante volte in meno. Quindi è evidente che lo stadio si fa e anche questi 18 palazzi a 7 piani. Però sarà molto complicato arrivare lì. La scelta di Tor di Valle è stata fatta proprio perché è vicino all'aeroporto di Fiumicino, è una zona che può essere edificata, ma andava fatta appunto con quelle opere pubbliche. Da lì, quando si diceva sempre l'interesse pubblico, ecco, per adesso sembra ci sia soltanto l'interesse privato e l'interesse politico. Allora, voi sapete quanto sarebbero costate queste opere pubbliche. In questo progetto quanto manca da finanziare per avere opere pubbliche sufficienti, secondo lei? Ma diciamo che è ovvio che questo progetto è una stima, stimiamo. Si stima almeno in circa 200 milioni di euro, che in realtà poi sono quelle opere che venivano fatte con la realizzazione delle tre torri, per cui la Raggi ha detto no, assolutamente no. Va bene, non facciamo più le torri, però il problema è che non si fanno più neanche le opere pubbliche, che erano quelle che consentivano di andare a vedere una partita.

un arbitrato che potrà dirimere ogni controversia, quindi una tutela di quelle che sono le piccole e medie imprese rispetto al potere delle multinazionali. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. And the Academy Award for Best Picture. Come on. La La Land. You know. Guys, I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. C'è stato un problema con la prima votazione, quella che ha contrapposto Miele a Francesco Gabbani, quindi la direzione Rai 1, insieme agli autori, ha deciso di ripetere il voto. Lo ripeteremo adesso. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. E allora, chi l'ha detto che gli americani hanno l'esclusiva? Marco Valsania, redazione americana del Sole 24 Ore. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Hai visto, però l'esclusiva non l'avete. Questo video l'abbiamo visto tutti, ma a quanto pare non siete gli unici. Allora, per chi non l'avesse riconosciuto, chi ancora non lo sapesse, è stata veramente un notte degli Oscar che ricorderemo nelle barzellette, presumo. La busta sbagliata, La La Land vince, non è vero, non ha vinto e si rifà tutto, però come vi abbiamo fatto sentire c'è un errore all'anno. Nel 2015 la proclamazione di Miss Universo e si sbaglia la Colombia, il discorso, la corona, no, è sbagliato, sono le Filippine. L'anno scorso a Sanremo, il vincitore di quest'anno, Gabbani, nelle nuove proposte, primo conteggio attraverso il televoto, fuori, sconfitto, si rifà, non è vero. Quindi neanche su questo avete l'esclusiva, Marco. No, sì, credo che la conta degli errori così storici sotto i riflettori, nelle grandi competizioni artistiche e o meno artistiche anche, sono quasi una costante. Agli Oscar però non era mai successo a questo livello. No, e più che altro ci si aspettava una macchina perfetta. Esatto, appena prima, diciamo, no, alla vigilia, Pricewaterhouse che diciamo gestisce le valigette famose, che invece dei segreti nucleari hanno i segreti dei vincitori degli Oscar, aveva appena detto che non hanno il loro contratto, non è mai stato messo in discussione perché sono sempre stati precisissimi. Ecco, questa volta hanno, e porta malissimo dire queste cose perché... però esatto, alla fine hanno dato loro la busta sbagliata in mano a Warren Beatty e a Faye Dunaway, che hanno poi con un certo imbarazzo, e si era capito, ci saranno delle ripercussioni secondo te, cambiano l'appalto? Ma questo è uno degli interrogativi dell'oggi o del domani, ecco, se questa cosa avrà o meno delle ripercussioni. Chiaramente è stato un errore proprio di così maccheronico, insomma, di scambio della busta, diciamo, e quindi voglio dire quasi così impensabile e difficile da prevedere. Detto questo, 1 miliardo di persone guardano gli Oscar, quindi diciamo così la scena non è la stata figura non è stata bellissima tra le migliori, esatto. Assolutamente. Ti riporto su argomenti un po' più seri, così oggi il presidente americano Trump. I have to say, when I was young in high school and college, everybody used to say we never lost a war. We never lost a war, you remember? And now we never win a war. We never win and we don't fight to win. But where we are 17 years, Marco, non ci vuole un grandissimo inglese per capirlo. È Trump che dice, una volta si diceva che l'America non perdeva mai una guerra, ora non ne vinciamo una, e lui una colpa la dà, ed è il budget. Quello che potrebbe arrivare domani, c'è il primo discorso sullo Stato dell'Unione da neopresidente, è in qualche modo una decisione storica. Ma sì, così lui la presenta. Anche sulla base della citazione che hai adesso fatto ascoltare, Me ne sovviene un'altra di citazione più o meno così a memoria, insomma, quella di Gramsci, che diceva che la storia insegna ma a pochi scolari, a pochi studenti. Sicuramente uno di questi non deve essere Trump, diciamo, vista la sua citazione. L'America di guerre ne ha perse, ne ha anche vinte, quindi credo che avrebbe fatto bene a ricordarsi, insomma, e non basta nei budget militari. Ecco, diciamo che dopo essere venuto in Europa, o meglio aver mandato il suo segretario di Stato, il suo segretario in Europa, a dire che la NATO deve aumentare i suoi investimenti per la sicurezza, arriveranno i tagli in America ad altri dipartimenti per aumentare quelli sulla difesa. Si parla anche di tagli ai paesi esteri. Cosa significa? Sì, sì. Si parla, diciamo, perché in realtà dovendo aumentare o volendo aumentare del 10% il budget della difesa, più o meno deve tagliare di altrettanto il resto del budget discrezionale, perché grosso modo si equivalgono circa 550 miliardi di dollari il budget del Pentagono, circa altrettanto praticamente il resto della spesa discrezionale. Anche perché Trump ha detto chiaramente, o ha fatto dire chiaramente ai suoi collaboratori, che non toccherà i veri motori dell'aumento della spesa federale, che sono poi i programmi di assistenza sanitaria agli anziani, Medicare, e di sistema pensionistico pubblico di Social Security. Ecco, andremo a vedere dove prenderà insomma i soldi. Dovrà prendere i soldi da tutto il resto, cioè gli aiuti all'estero, ma anche la cultura, le arti e tutti gli altri programmi sociali, l'agenzia per la protezione ambientale. Questi dovranno perdere più o meno per forza, cioè allora, 4 miliardi che avremo occasione a questo punto di rifare i conti. Grazie Marco Valsani, redazione americana del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi. Avremo occasione di riparlarne sicuramente con Roberta Giordano nei prossimi giorni, torna domani puntuale. Avremo occasione, rassicuro gli ascoltatori, anche di tornare sullo stadio di Roma. Avremo ancora moltissimo da dire, è ovvio che si invita una parte quel giorno, quello dice, ma l'abbiamo fatto e lo faremo ancora, e ne parleremo da tutti i punti di vista, come sempre aperti anche alle vostre opinioni a Effetto Notte. Nel frattempo grazie a Christian Goldoni in redazione, a tutta la redazione di Radio 24 come sempre, Roberta Frisani in regia. Buona serata da Anna Migliorati, ci ritroviamo tra pochissimo con le notizie di oggi.